Respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini a Respiro. Che rapporto avete con i detersivi? Le leggete, le etichette, li adoperate nelle giuste dosi? E come e dove li conservate? Secondo un'indagine condotta da Eurisco per Assocasa, che è l'Associazione Nazionale Detergenti e Specialità per l'Industria e per la Casa, gli italiani sono quasi tutti consapevoli della necessità di rispettare l'ambiente e risparmiare energia. E di conseguenza la maggior parte di noi si sforza, o almeno dice di sforzarsi, di usare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, ad esempio, e anche con le giuste dosi di detersivo. A quanto pare poi ci impegniamo anche a smaltire correttamente i contenitori dei detersivi, ma abbiamo ancora molto da imparare in fatto di etichette, simboli sulle confezioni e conservazione dei prodotti. Sentiamo infatti cosa ci ha raccontato Massimo Sarcina, direttore di ricerca di Eurisco. Noi abbiamo fatto una ricerca sui responsabili acquisti prodotti per la casa e siamo andati a misurare quello che è l'atteggiamento di comportamento proprio pratico dei consumatori relativamente ad alcune azioni specifiche e molto limitate. Quindi come utilizzano sostanzialmente i prodotti come i detergenti per il bucato, per i tessuti, come utilizzano i prodotti per lavare i piatti a mano e lavastoviglie, come utilizzano gli insetticidi e come utilizzano i deodoranti ambientali. All'interno di queste quattro categorie poi siamo andati a vedere effettivamente alcune pratiche che vengono messe in atto per lavare, come per esempio misurare o caricare al massimo la lavastoviglie, la lavatrice, o fare attenzione alle etichette, quanto queste pratiche qui sono diffuse tra i consumatori. Quello che ne è venuto fuori è che i consumatori italiani possono essere promossi relativamente ad alcuni atteggiamenti di consumo, come ad esempio caricare al massimo la lavastoviglie, caricare al massimo la lavatrice, fare attenzione a misurare effettivamente la quantità di detersivo. Ecco, in questi atteggiamenti c'è effettivamente una maggioranza delle persone che adotta un comportamento virtuoso, quindi un comportamento aderente a quello che è, a quello che sarebbe richiesto. Per quanto riguarda invece l'attenzione alle etichette, su quello invece c'è ancora del lavoro da fare, perché sostanzialmente circa un 30% di intervistati dichiara di fare attenzione alle etichette e c'è invece un 70% che sostanzialmente dice che le etichette le guarda saltuariamente quando capita, oppure anche guardare l'etichetta per sapere cosa? Guardare l'etichetta per leggere le avvertenze di utilizzo e di pericolosità e contemporaneamente guardare i simboli. Questa è sostanzialmente la domanda che abbiamo posto. Quindi nei simboli, nelle etichette per la maggioranza? Diciamo di sì. Poi abbiamo rilevato anche ciascun simbolo per capire quanto venivano riconosciuti, quanto venivano decodificati i simboli più noti di pericolosità e di attenzione che sono posti sui prodotti per la pulizia della casa. E quello che viene fuori è che alcuni simboli sono particolarmente decodificati e riconosciuti, come il simbolo di pericolo infiammabile o il simbolo corrosivo o il simbolo pericoloso per l'ambiente, quando invece andiamo al simbolo più noto, che è la famosa croce di Sant'Andrea, cioè quella X inserita su campo arancio, che è il simbolo classico, quello non viene correttamente decodificato e solo una piccola minoranza riesce ad associarlo a quello che effettivamente il messaggio che è contenuto, che è irritante, ma qualora tu poni solo il simbolo come abbiamo fatto noi, la maggior parte della gente non riesce. In sostanza la sintesi di questa ricerca è che su alcuni si può dire che di certo non si può dire che gli italiani sono diventati ecosostenibili, c'è sicuramente un gran parlare di questo fatto dell'ecosostenibilità, dell'attenzione all'ambiente, quindi questo è sicuramente positivo perché genera dei meccanismi di conoscenza e di consapevolezza, se non altro teorica, di ciò che si dovrebbe fare. Per quanto riguarda invece i comportamenti, beh, allora su un campo piuttosto circoscritto come quello dell'utilizzo dei prodotti per la casa, il carico della lavatrice, la misurazione, eccetera, sembra essersi negli anni metabolizzata una certa attenzione ad un utilizzo corretto di questi prodotti. Quando invece si tratta di fare maggiore attenzione alle etichette o compiere azioni un po' più fini, un po' più complicate, come non so, comprare il prodotto concentrato oppure comprare un prodotto che si può ricaricare, queste cose qui invece hanno ancora delle percentuali piuttosto basse. Quindi un po' c'è una tradizione orale, diciamo, magari che Tradizione orale o legata comunque a un risparmio effettivo, come per esempio quello del carico della lavatrice, sì, della lavastoviglie, cioè circa il 90% carica pieno, dichiara che la maggior parte dei loro lavaggi sono a pieno carico. Quindi su questo c'è attenzione. Sul fatto di misurare attentamente, secondo quanto riportato sulla confezione, c'è un 70% che dice che misura e un 30% che dichiara proprio apertamente di non seguire le indicazioni. Quindi è un po' il bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, no? Cioè, si può guardare a quel 70% e dire comunque la maggior parte della gente, delle persone, se non altro dichiara di fare attenzione quando misura, quindi di misurare correttamente. Dall'altro si può guardare al 30% e dire che c'è un 30% che non ha paura di dichiarare, di dire apertamente che non rispetta le indicazioni che sono indicate, che quindi ne usa sempre un pochino di più, un pochino di meno. Certo. Quindi da un lato si può dire che alcuni comportamenti sicuramente virtuosi sono entrati nella mappa mentale degli italiani. Se invece andiamo più sull'attenzione alla sicurezza o anche, per esempio, mi viene in mente la conservazione del prodotto. La conservazione del prodotto è anche un altro tema che per il quale abbiamo messo in evidenza che c'è una certa faciloneria, forse. Sì, una certa faciloneria, disattenzione. Dove conservano il prodotto? Su una mensola rialzata, sotto il lavello, in un armadietto chiuso a chiave? Sono molto pochi quelli che conservano i prodotti di pulizia per la casa in un armadietto chiuso a chiave. Voi non avete termini di paragone sul passato, cioè ricerche fatte in passato? Su questa era la prima, immagino. Questa di questo è la tipo. Prima su un tema così specifico come l'utilizzo dei prodotti per la casa, quindi è la prima che facciamo entrando nel dettaglio di come praticamente vengono utilizzati i prodotti proprio nella vita di tutti i giorni. Avevamo fatto altre ricerche che sondavano in generale l'interesse e l'attenzione alla sostenibilità come tema, quindi senza declinarlo poi in particolari atteggiamenti di consumo molto dettagliati. C'è da dire che questo è un tema che comunque si presta a una facile over declaration, perché come puoi immaginare ogni qualvolta un consumatore, un intervistato, gli si nomina o cita la parola ambiente, ecosostenibile e attenzione, cura del pianeta, è chiaro che tutti si dichiarano fortemente ambientalisti, fortemente ecosostenibili, tutti adottano comportamenti virtuosi o si dicono molto propensi, magari anche come avevamo fatto in una ricerca precedente, a pagare un pochino di più per un prodotto ecosostenibile. Oggi, quest'anno, siamo andati invece a vedere effettivamente, senza mai nominare le parole ecosostenibile e ambiente, che chiaramente rimandano un effetto over declaration, come loro si comportano, come per esempio lavano i piatti, ecco un'altra cosa che abbiamo rilevato, se fanno spreco di detersivo, se utilizzano il beccuccio, insomma tutta una serie di informazioni di questo tipo. Senta, mi scusi se faccio un po' gli affari suoi, ma dopo questa ricerca lei a casa ha cambiato abitudini, magari si è un po'... Guardi, io devo dire la verità, vivo da solo, sono single e sono un disastro per quanto riguarda l'attenzione all'ambiente, glielo devo dichiarare proprio. Quindi forse era la persona giusta però per la ricerca. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però adesso ogni volta che prende in mano un detersivo per i piatti ci pensa. Assolutamente sì. E allora, se questo è il rapporto tra italiani e detersivi, cosa farà a Assocasa con questi dati? Che cosa ne deduce? Luciano Pizzato, presidente di Assocasa. fare delle, diciamo, indagini di mercato consente di dare, diciamo, dei risultati, dei dati concreti e quindi di stimolo per tutte le aziende per poter, diciamo, aumentare la propria cultura e quindi le proprie attività in questa direzione. I risultati che avete avuto da questa indagine vi hanno confortato, insomma, nel cammino intrapreso? Sì, chiaro, ci sono delle aree che sicuramente ci hanno confortato, perché il fatto che alcuni dei pilastri fondamentali della nostra comunicazione di sostenibilità, quali per esempio l'uso della macchina lavatrice o della macchina lavastoviglie a pieno carico, è sicuramente un successo importante. Il fatto che poi vi sia un'attenzione al lavaggio, diciamo, alla bassa temperatura, eccetera, chiaro, ci danno la dimostrazione che alcune cose sono state comprese in maniera, diciamo così, importante, altre meritano attenzione e un maggiore anche, diciamo, impegno in termini di comunicazione. Ad esempio quali? Per esempio è emerso che nel caso del nel lavaggio delle lavastoviglie l'uso di temperature, non so, a 50-55 gradi, noi abbiamo fatto una campagna di promozione che su tutti i parte dei nostri confezioni lavastoviglie che dice, che si chiama Save Energy in Water, risparmio energia in acqua, e dice prova dei cicli dei cicli del lavaggio a temperatura più bassa. Ecco, su questo punto gli italiani invece non ci sentono molto, quindi. No, ci sentono, ma potrebbero sentirsi di più. Come dicevo prima, è importante verificare qual è poi il comportamento finale del consumatore, perché il consumatore gioca un importante ruolo in questo. Certo, il consumatore comincia a chiedervi anche delle cose, o per ora siete soprattutto voi a proporre delle soluzioni alternative, diciamo, a quelle tradizionali? Ma tutto chiaro che le nostre aziende sono impegnate, diciamo, a un grosso impegno di innovazione. Quindi oggi innovare vuol dire fare nuovi prodotti, trovare soluzioni sostenibili, eccetera, eccetera. Quindi fa tutto parte dell'insieme del processo di innovazione, che oggi include anche una grossa attenzione all'aspetto della sostenibilità. Sostenibilità e detergenza tante volte si pensa non vadano di pari passo, no? Il detersivo inquina, sporca e così via. Nel corso degli anni com'è cambiata invece la produzione di questi prodotti? Beh, innanzitutto ci sono delle leggi molto precise, in senso quello che una volta era un po' il fatto della biodegradabilità dei tensioattivi eccetera, oggi ormai non è un problema, perché è assolutamente regolato da regolamenti europei. Quindi una volta che diceva il detenzio inquina, non è più vero, nel senso che è anche l'ultimo regolamento sulla REACH, chiaramente forzerà sempre di più e garantirà la sicurezza degli ingredienti usati. Quindi oggi i tensioattivi sono completamente biodegradabili e alla fine qualsiasi tensioattivo, diciamo, che viene usato si trasforma in anidride carbonica e acqua alla fine. La necessità di adeguarsi a questa normativa sempre più stringente, come diceva lei, a livello europeo, ha costretto le aziende, ovviamente, immagino, uno sforzo anche economico, di un impegno superiore. Come hanno reagito le aziende stesse a questa richiesta? Ma questo chiaramente è un processo continuo. Diciamo che le nostre aziende, in particolare attraverso la nostra associazione europea, negli anni scorsi abbiamo messo in punto un progetto che si chiama ERA, Environment Human Health Risk Assessment, in cui anche prima di queste legislazioni entrassero in vigore aveva dimostrato la sicurezza sia per l'ambiente che per la salute della maggior parte degli ingredienti usati nei nostri prodotti. Quindi eravate già pronti, ecco. Sì, esattamente. A questo punto ci auguriamo che la prossima volta che prenderete in mano un detersivo vi venga in mente questa trasmissione e che quindi vi domandiate quanto usarne e come usarlo e soprattutto poi che lo riponiate in un luogo molto sicuro. Per riascoltarci come sempre potete andare sul nostro sito internet www.radio24.it, c'è una pagina dedicata a questo programma, Respiro. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.